Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ladies and gentlemen, madame e monsieur, è qui con noi Enzo! Non abbandonate mai i nostri sogni! Mi sorridi sempre così, se faccio improvviso. Vuoi vedere che io lo faccio? Non so quanti avranno visto il film reality di Matteo Garrone, ma posso sintetizzarvelo in pochissimi tratti. È la storia di un pescivendolo napoletano che vive la sua vita da pescivendolo in una Napoli ricostruita come se fosse un presepe, e a un certo punto viene lambito dalla possibilità di partecipare al Grande Fratello. Per lui diventa un evento fantastico, cambia completamente la sua vita, cambia la considerazione che il mondo ha di lui. Poi, naturalmente, come tutte le favole con un finale amaro, ve lo lascio sospeso il finale perché fare lo spoiler non sarebbe corretto, comunque sia non riesce a realizzare a fondo il suo sogno, perlomeno ci riesce a metà. Comunque c'è questa sorta di uscita, di permeabilità fra il mondo della realtà e il mondo del vorrei ma non posso, in cui il reality show nel nostro paese è rappresentato comunque una via possibile di uscita dal quotidiano. Noi abbiamo più volte trattato le possibilità di entrata e uscita attraverso il mondo della rappresentazione per chi non ha altra forma per sentirsi affrancato dalla propria condizione. Il pescivendolo napoletano in realtà rappresenta uno stereotipo dell'italiano medio che in questi ultimi 10 anni, anzi ultimi 12 anni, perché in realtà il Grande Fratello sono 2 anni che non si vede più, è un anno che non si vede più in Italia, o più o meno, capito? Questo è il secondo anno che non ci sarà il Grande Fratello, e quindi cominceremo a vedere quali saranno gli effetti di questa modalità di uscita dal mondo che entra nella letteratura, entra nel racconto per la prima volta attraverso il cinema. Assolutamente no, non c'è questo problema, no, non c'è. Veramente? E voi, mandami via! C'è tutta Napoli a festeggiare, sì, siamo a ho capito. No, ma noi l'abbiamo preso proprio per questo, perché si vede proprio dalla faccia che lei è una persona, diciamo, lei ha la faccia proprio estruz. Naturalmente il protagonista diventa oggetto di scherzo, di facezia, di presa in giro da parte degli amici, che sottolineano questa sua lunga attesa della telefonata da parte della produzione con scherzi terribili. Lui aspettava da settimane una telefonata senza destinatario visibile, che immaginava fosse qualcuno che non apparteneva alla sua rubrica, e un amico, un giorno che vanno a passare una mattinata in una piscina con sport acquatici, tutta la sacra famiglia del pescivendolo lo prende in giro. Poco fa ho detto che è il secondo anno che non c'è il Grande Fratello, ma mi sembra un periodo così lungo, in realtà è il primo anno, questa sarà la prima stagione in cui non vedremo il Grande Fratello. Ma perché? Perché l'ultima edizione è passata abbastanza in sordina, ormai la liturgia era sempre la stessa, non cambiava mai, non si capiva più se assistessimo a una replica degli anni passati fosse qualcosa che ormai non rappresentava più un evento. Anche la RAI ha cancellato l'Isola dei Famosi, al suo posto manderanno un talent show con Morandi, quindi ritorna dopo la gloria celentanesca la vecchia antica televisione, questa finestra che sembrava essersi aperta nelle nostre coscienze di paese, che l'italiano poteva ambire ad essere qualcosa che non sarebbe mai stato nella vita normale attraverso il reality show, si è chiusa in maniera definitiva. Giuseppe Sanzonna, buongiorno. Buongiorno. Tu hai visto il film di Garrone? Sì, l'ho visto. Ecco, il tuo punto di vista rispetto a proprio al panorama dei tanti film che nel nostro paese hanno raccontato il rapporto Italia e televisione. Beh, non è un caso che Garrone abbia preso questo brand ormai al tracollo che è il Grande Fratello, forse per dare corpo a una metafora molto possente, molto particolare: l'accesso alla casa che rimane proibito per questo protagonista, per questo pescivendolo che smania per entrarvi, è impossibile perché la casa è il tutto, lui sono gli acqua park, sono i grandi centri commerciali, sono i lager colorati della modernità che sono arredati come un set televisivo pieni di luci, pieni di telecamere possibili e in cui si è sempre in scena. È questo che è l'intuizione autoriale molto forte di un film fatto con grande attenzione, con questa camera che incombe sul protagonista con grande pudore e ne scandaglia tutte le vicissitudini. Sì, l'idea infatti che ormai esista un parco a tema continuo anche al di fuori del set televisivo del Grande Fratello, basta andare in un centro commerciale, andare in un luogo di passatempo e divertimento, esiste già la realtà parallela ricostruita continua, quindi forse per questo non aveva più senso continuare a insistere sul Grande Fratello. Esatto, e poi la grande scelta forte di Garrone è quella che ne fa un autore, è quella di non piegarsi su scelte attoriali appunto standard di maniera, ma prendere Aniello Arena che ha questa faccia un po' da, se ricorda un po' il Rupert Pupkin di Re per una notte di Scorsese, però una versione napoletana, questa ottusità febbrile, smaniosa che lo farà lambire la psicosi nel corso del film. Un serial killer della Camorra che ha ucciso persone col Kalashnikov, quindi uno che conosce il lato crudo della vita e ancora più importante lo è veramente nella vita, mi sembra che stia scontando degli arresti ancora per quello che ha fatto, anche se lo vediamo girare, tu l'hai visto l'altro giorno al Pigneto. No, io l'ho visto ieri, o mi è parso di vederlo ieri al Pigneto, ma comunque so che mi sembra che lui torni la sera in carcere. In ogni caso fa parte della compagnia di Voltaire, Garrone lo ha già visto recitare in teatro con Armando Punzo e ha un talento straordinario, è perfetto nel tratteggiare questa figura appunto ossessiva, spasmodica, nella voglia di accedere a questa casa, alla chimera della casa, e bravi anche sono gli attori di contorno. Si calmi, che tanto non c'è. Perché devo parlare con il regista, dove sta? Ma cosa gli vuol dire? Cosa gli voglio dire? Che ci avevate da ridere sta ragazzina? Te fa tanto ridere. Dove sta il signor? Eccolo là. Signor Blasetti, abbia pazienza, lei che. Dopo, me lasci passare! Me lasci passare, dico! Scusi tanto, signor Blasetti. Scusi tanto. Ma io stavo nascosta lassù in cabina. Dove fanno. Ho sentito ridere tutte queste risate. Che ci avevate da ridere? Ma ve fa tanto ridere sta ragazzina. Tranquillo. E guardatela, è una ragazzina come le altre. Ho sentito perfino di uno che è una nana, ma no, ma che maniera è questa? Non ci avete rispetto dei sentimenti degli altri proprio, non ci avete nessun rispetto dei sacrifici che uno fa. Ne ho fatti tanti, signor Blasetti. Emiliano Monreale, buongiorno. Buongiorno. Critico storico del cinema, docente all'Università di Torino di filmologia. Abbiamo fatto questo accostamento, forse nemmeno troppo ardito, Anna Magnani in Bellissima, che se la prende con la troupe del provino della propria figlia mostruosa, perché si è accorto la prendono in giro. In fondo anche il protagonista Luciano del film Reality viene in qualche maniera preso in giro, sia dai suoi amici, ma anche da quelli che fanno il casting, che alla fine lui arriva in ritardo, chiede al divo del momento se può avere sempre la napoletana, una corsia di preferenza, gli fa fare un provino tarocco all'ultimo momento, così quando già se ne erano andati tutti. Sì, c'è un proprio l'accostamento con Bellissima, che ovviamente è forte ed è anche, credo, autorizzato da regista. Su cui credo che abbia anche citato Bellissima, ma anche il cinema di De Sica, eccetera. Fa risaltare però questo accostamento due cose fondamentali. Intanto Bellissima era un film sulla crudeltà del mondo del cinema. Quindi lì c'era, come dire, era il cinema che criticava se stesso. Qui invece è un film sulla crudeltà della televisione, ma non solo di quello, almeno apparentemente sulla televisione. Quindi rischia di essere frainteso, perché sembra che, almeno quello, questo è ciò che potrebbe aspettarsi il pubblico, che Garrone voglia, da regista, da autore di cinema, in qualche modo denunciare, satireggiare, accusare la televisione. Invece non è assolutamente questo, il film non è un film sulla televisione o contro la televisione, come dicevate anche voi prima, il fatto che ci sia il Grande Fratello, che il Grande Fratello sia a declinare è significativo, cioè questo non è un film sulla crudeltà della televisione e soprattutto non è un film sulla come dire, sui danni della povertà culturale. Questa è l'altra differenza con Bellissima, cioè Bellissima era un film su un popolo tradito e che cominciava a essere ucciso, no? In Roma città aperta Anna Magnani urlava, Francesco era un urlo di dolore, ma era anche l'urlo di una levatrice che faceva nascere una nazione. In Bellissima piange da sola su una panchina, in Mamma Roma 10 anni dopo si inghiozzerà muta. In questi tre pianti della Magnani possiamo far passare la storia della fine di un popolo. Garrone arriva dopo, Garrone ci racconta la storia di un popolo che non c'è più e che si aggira, come dicevate voi prima, in questa specie di grande Disneyland. una Disneyland, se vogliamo, ambigua, perché c'è dentro Napoli, che come sappiamo è un po' anche sempre la recita di Napoli. Ha giocato un po' sugli estremi stereotipi, però. E quindi rischia di... Io credo veramente che leggendo le recensioni dei film ero abbastanza sbalordito, perché c'era una sorta di difficoltà a entrare nel film, più della critica che non degli spettatori, che poi vedevano, gli spettatori normali vedevano il film, che mi ha molto stupito. Cioè, io credo che Reality sia un film, per esempio, molto più difficile di Gomorra per il pubblico. Gomorra in fondo è un film che è un film duro, ma è un film che si capisce. Reality è un'apparenza semplice, ma è un film di estrema complessità e che ha una serie di trabocchetti. Beh, sai, da Gomorra uno può prendere le distanze, dire non mi appartiene, quella è la Camorra. Questo. Da Grande Fratello, però anche il limite del film, forse nessuno può prendere le distanze. Lì è soltanto rappresentata una fetta di società che ha tutti gli strumenti di subcultura, di emarginazione, di velleità per poter stare nel Grande Fratello. Ma nel Grande Fratello ci stavano tutti. Esatto. La prima conduttrice è stata Daria Bignardi, il fiorfiore dell'iperfighettaggine che possa esistere nel nostro paese. Voi volete entrare in quella casa? Sì che voglio entrare. E ci entrerete. Ma tu arrepigliano, c'è tutto l'indagato, ma che combinate? Scitato! E non mangia arrepiglia niente, hai capito? Perché come ti dici, tu non vuoi capire. Confermata, pezza qua. Nicola Lagioia, buongiorno. Buongiorno. Nicola Lagioia, mi piaceva capire, questa è una fase in cui il protagonista va al cimitero, già era andato via di testa, davanti ai loculi trova due prefiche, due signore anziane, che capiscono che stava un po' disturbato, gli fanno anche la profezia, come la magona di ladri di bicicletta, dice la trovi subito, non la trovi più, dicono c'entrerai nella casa. Ecco, è d'accordo con quello che diceva prima Monreale, che in realtà questo è un film molto difficile, perché è difficile prenderne le distanze, perché ci siamo dentro tutti, fino alle caviglie, anche più. Io sono d'accordo sul fatto, quando Monreale diceva che è questo il cinema di un popolo che non esiste più. E il popolo non esiste più perché chi è osservato, sapendo di esserlo, non rivela più niente di se stesso. In realtà il Grande Fratello mi sembra una sorta di prefigurazione del Panopticon, che sarebbe praticamente il carcere inventato da Jeremy Bentham alla fine del Settecento, che era un luogo in cui i prigionieri venivano osservati in ogni momento della loro vita. E solo che il problema è che alla natura piace nascondersi, no? Come si dice, e quindi ciò che poi il fatto che nel Panopticon ci siamo tutti, basti pensare, per me l'upgrade del Grande Fratello sono i social network, per esempio Twitter o Facebook, siamo tutti voyeur, da una parte osserviamo i ludi gladiatori e dall'altra siamo osservati. Ecco, questa riflessione però, la gioia, spalmiamola sulla nostra essenza di italiani. Noi non a caso, guardi, siamo i primi nel mondo come uso e abuso dei social network. La passione che abbiamo avuto per il reality show immediatamente ci ha fatto diventare dei professionisti. Il professionista partecipante al provino del reality show è emerso immediatamente come figura tipica di ogni latitudine del nostro paese. Ecco, vediamo un po' nell'Italia del neorealismo, l'Italia raccontata dal dopoguerra da grandi maestri del cinema, e l'Italia che oggi agli sgoccioli racconta se stessa attraverso reality, che non è un genere italiano, però ci rappresenta. Ma guardi, sì, è infatti vero, il reality è perfetto per il carattere italiano. Innanzitutto perché c'è un uomo della provvidenza che ti chiama a un certo punto, no? E gli italiani hanno sempre bisogno dell'uomo della provvidenza, che potevano essere i giudici durante Tangentopoli, Berlusconi durante il berlusconismo. Quindi da una parte c'è quest'uomo Beppe della provvidenza. Grillo adesso, Celentano, tutti. L'uomo della provvidenza ti salva dall'anonimato. Dopodiché nel momento in cui sei in gioco, non sei mai davvero in gioco, perché nella casa del Grande Fratello c'è proprio la devoluzione della responsabilità, non sei tanto responsabile delle tue azioni, cioè non è che sei lì, sei miracolato, sei scelto, ma in realtà non ti devi sbattere per niente, se non per essere eventualmente te stesso, che poi non lo sei mai. Che la frase tipica, ogni mamma, ogni parente, ogni fidanzato, sii te stesso, che è il contrario di quello che uno deve essere lì dentro. Tanto è vero che quando poi ci va uno un pochettino più armato in un talent show o in un reality, scatta, c'è il cortocircuito. Pensiamo a Busi all'Isola dei Famosi, l'unico non analfabeto di ritorno che stava lì, e infatti fa succedere consapevolmente un casino, perché lì il meccanismo si incrina. Ma al di là degli antitaliani, cioè lo hanno cacciato con un escamotage, con la tipica vergognosa scusa di essere stato blasfemo, aver attaccato la religione, religione e via dicendo. Eh sì, quando poi la vera blasfemia sono, no, i filmaggi grafici sul Papa che offendono la religione ma non la Chiesa, e quindi vanno bene. Invece se uno offende la Chiesa omaggiando la religione, si pensa che a Cipriano Maresco, e lì appunto scatta la scomunica. Quindi, infatti la gioia, una categoria tipica delle reality show, è il concorrente blasfemo. Ogni edizione ha avuto il blasfemo, mettono un toscano bestemmiatore in una situazione di stress, poi la prima volta che se ne esce con uno smadonnamento viene subito cacciato. Sì, esattamente, tu metti, fa ridere, no? Perché metti Jack the Ripper in un vicolo buio, poi ti sbalordisci perché sgozza qualcuno, ma il problema non è Jack the Ripper, sei tu che l'hai messo lì. Signorina Campagnoli, ci porti la busta con le prime 5 domande. Con queste domande speriamo di portarla al primo gettone d'oro. Speriamo. Signorina. Signorina. Sì, mi spiace, ma il mio posto vicino al notaio. Ma stia qui con noi, così carina, porta fortuna. A me mi porta fortuna, Sara. Capisco, Duca, ma il notaio non mi permette, no? Ah, questi notai. Ah. Duca, guardi che lei ha scelto Ittica, non... Beh, cosa vuole, donne, cavalli, sa, a prescindere. Allora, per 2000... Giuseppe Sanzon, in Totò lascio raddoppia, c'era una situazione analoga. C'era la possibilità di svoltare per una coppia di giovani innamorati, quindi di potersi sposare, ma i soldi devono essere i gettoni d'oro di Lascio Raddoppio. Sì, ma l'altro cortocircuito che scatta rispetto anche a quello che diceva la Gioia prima è la fenomenologia di Mike Buongiorno, che diceva: voi siete Dio, siate immoti. Era questo il grande messaggio di Mike Buongiorno, cioè non dovrei essere meglio di quello che si è, non dovrei uscire entrare nel miglioramento della propria condizione. In questo film, in reality, si diceva quello che rimane obscena è il racconto della, e questo forse il cinema si dovrà occupare di scandagliare nei prossimi film, è la figura dell'autore, la perfidia dell'uomo colto, quello che aveva l'Eskimo e la Molotov negli anni 70, che fa le buone letture e che per giustificare il suo lauto stipendio di grande autore di questi reality magari dice sì, ma noi in fondo facciamo la commedia dell'arte, gli diamo delle dritte e poi loro portano avanti le cose, ma scandagliando tra l'altro psicologie fragili, ex anoressici, bulimici, gente con traumi familiari, e mettendoli in questa casa e creando cortocircuiti. Infatti mancano, Emiliano, le figure degli autori, che sono la chiave del Grande Fratello, sono i grandi sceneggiatori. L'unica volta in cui alla fine il protagonista entra nel set del Grande Fratello è un set surreale, fellliniano, quasi di notte, si vedono gli operatori ma si vedono soltanto di spalle. Manca l'autore, manca colui che in realtà è il grande burattinaio di queste figure. Credo che uno delle questioni sia il fatto che Garrone è un regista senza cinismo. In questo film, secondo me, non c'è il grottesco, come si è detto, non c'è il cinismo. E il motivo per cui questo è un film molto distante dalla commedia all'italiana. Si è citato la commedia all'italiana, ma perché quando c'è un film italiano si cita o il neorealismo o la commedia all'italiana, non è che se ne esce, o certe volte il film politico, per cui Gomorra, neorealismo, questo commedia all'italiana. Ma Garrone non è un cinico e soprattutto non ama e non sa e non vuole raccontare la borghesia, la sua classe, poi alla fine quella di tutti noi, diciamo, presenti in questo studio è larga parte degli ascoltatori. Quindi è un po' un atteggiamento da dama di San Vincenzo, dalla cioccolata al poveretto. No, è soltanto che racconta solo le persone che riesce a cui riesce ad avvicinarsi, a voler bene. Lui non è un regista che fa dei film contro i personaggi, li fa con i personaggi. E se uno fa un film su un autore del Grande Fratello, inevitabilmente avrebbe dovuto fare un film con dei nuovi mostri, no? Una cosa là. E Garrone, secondo me, non è quel tipo di regista. È un regista che è totalmente empatico. La forza del film è che ci fa la grande carità e la grande empatia che ha con questo protagonista, col quale a un certo punto noi veramente entriamo in contatto. Non è un caso che questo film nasca come diciamo spin-off di un film non realizzato, cioè del film su Fabrizio Corona. Per anni Garrone ha tentato di scrivere questo film su Corona, su Cafonal, si è messo a collaborare con Walter City ha raccontato gli autori del Grande Fratello, non dimentichiamo. E sta facendo un reality in televisione però Walter City. Ma perché lui, diciamo, fa il professore in un reality dedicato alla scuola. Melog, la realtà condivisa, nasce da una storia realmente accaduta che poi abbiamo, insieme agli sceneggiatori Braucci, Chiti e Gaudioso, abbiamo così un po' reinventato a modo nostro. Non abbandonate mai i vostri sogni! È un film diverso da Gomorra, cerca di avere un registro un po' più, come dire, più comico, più da commedia. Ma che questa è l'ultima raffetta non famosa! Perché Agnello aveva la fisicità giusta per interpretare il ruolo di un uomo del popolo, pescivendolo, che ha un grande carisma e che sogna di poter entrare nel mondo dello spettacolo. Questo è Matteo Garrone che parla del suo film Reality, che abbiamo preso come spunto questa mattina per osservarci, per osservare il nostro rapporto con il mondo della rappresentazione, che in epoche passate, nella euforia e nella gloria del dopoguerra, era il cinema, per alcuni sensi anche il fotoromanzo, anche se poco celebrato, e oggi è la televisione nella sua accezione del reality show, l'ultimo canto del cigno della spontaneità, dell'essere se stessi, della vita presa a tempo reale, che in realtà ha prodotto un mestiere, il mestiere del protagonista di reality show, in cui appunto Luciano, il protagonista di questo film, tenta di immedesimarsi. Lui è una grande comunicativa, fa il pescivendolo, è bravo a vendere i pesci alle signore, a promettergli sconti, a convincerle. Funziona molto come autore di sketch comici nei grandi matrimoni napoletani, questi matrimoni enormi, giganteschi, fatti anche lì in altri grandi palazzi dove si entra con i palafreniere, con la carrozza, con i cavalli, altro mondo di principesse, di sogni, e lui lì si traveste in alberghi fantastici, nulla a vedere con il borgo ricostruito in cartapesta dove lui vive, il piccolo quartiere, che in realtà sono case fatiscenti ma piene di mobili, televisori, tecnologia. In questo è molto realistico, ma è un'Italia che appartiene alla dimensione geografica in cui si produce, non è tutta l'Italia. Giuseppe Sanzon. Ma quella che citavi tu era quella scena meravigliosa che si vede all'inizio di questa carrozza, questo cocchio che entra come in Cenerentola, come dopo la trasformazione della zucca, ed entra alla Sorrisa, questa villa settecentesca che sembra arredata da un arredatore di interni di Miami, cocainomane, perché c'è un profluvio del barocco, di eccessi, di... Ma un'altra cosa... Dove si svolgono matrimoni seriali, dove l'ospite del reality, che è il vero personaggio, dice la stessa frase e passa da una sposa all'altra, la sposa più bella del mondo, e poi va subito da un'altra. Con lo slogan never give up, non rinunciate mai ai vostri sogni, solo che il sogno è appunto non c'è, perché è impossibile, è tutto già sognato, tutto già iper rappresentato. Un'altra cosa sulla modalità con cui gira Garrone, che gira tutto in sequenza dall'inizio alla fine, e i personaggi crescono col film, e poi fa lui l'operatore, quindi ha modo di ansimare sulle figure, e questo gli dà molta verità, molta intensità al film, e questo emerge anche in reality. Emiliano Morreale, ti avevo interrotto prima quando stavi facendo appunto una tua lettura molto particolare sull'essere buono e l'impossibilità di raccontare questo mondo con lo sguardo buono, e soprattutto che non vuol guardare mai se stesso allo specchio come categoria umana. Dicevo questo, che appunto il film nasce dal tentativo non riuscito di fare un film su Fabrizio Corona, che è qualcosa invece di più oscenamente vicino a noi, e Garrone diceva non ho trovato la da distanza, Corona non ci si smarca, la distanza tutti giusta. Siamo Corona, sì. In qualche maniera, in qualche modo, però il rischio è di finire schiacciati dalla spettacolarità e dal mondo delle cose, cioè, allora anziché raccontarlo da troppo lontano, perché Corona comunque è un personaggio ripugnante per il regista, l'ho raccontato da vicino, che è paradossale, perché in realtà Corona è più vicino a noi spettatori e ideale autore di film di quanto non lo sia. Però in realtà la cosa paradossale è che permette una maggiore vicinanza al protagonista, cioè si entra dentro maggiormente con questo personaggio. La cosa però interessante è che il regista a questo punto non è che si metta, non è che finga di essere così tanto addosso al personaggio, perché c'è come una sorta di doppio binario. Il film è contemporaneamente addosso al personaggio con la macchina a mano, nelle scene senza musica eccetera, poi invece improvvisamente si mostra come regista, mettitore in scena, quindi con grandi dolly, carrelli, questo movimentone iniziale di elicottero, il cariglion della musichetta, cioè mette in scena il proprio apparato di cinema. Cioè, come dire, io in fondo però vi faccio vedere che anch'io sto costruendo una grossa finzione, una fiaba. Se ricordiamo lo show all'Arena di Verona di qualche giorno fa di Celentano, iniziava proprio così. L'elicottero, il terremoto, le palle, cioè esattamente questa ricostruzione di pathos enorme in cui sappiamo esattamente che si immedesima l'italiano. L'italiano è sempre sapere e pensare che c'è un buco nero, un'apocalisse, una catastrofe vicina, e arriva appunto, come diceva prima, l'uomo della provvidenza che ci prende per una mano e ci porta via. Il fraticello dei miracoli, accompagnato dal professor De Nittis e dal padre guardiano del suo convento, Fra Girolamo Grazie. Prego. Grazie. La prego, si accomodi, si sieda. Oh, no, no, ti ringrazio. Si sieda. E lì, no. Quanta umiltà. Il santo non vuole sedersi sulla posta. Spostati di casella. Voi, dal 6, scalate al 4. Devo dire che il cinema italiano ha avuto una profezia. Anticipato tutto questo, anticiparlo fu proprio Fellini. Sembra a metà degli anni 80, Gingere Fred, confortami Emiliano, 85. A metà degli 85, odiava tanto la televisione commerciale perché spezzettava i film con la pubblicità, però fece un ritratto unico di quella che era la TV commerciale, che fatto nell'85 è attuale anche oggi, non è cambiato. I programmi di Rai 1 del mattino, del primo pomeriggio, anche di Canale 5, sono esattamente questo: una rassegna di casi umani, una rassegna di mostri, un po' di attualità, la ricerca di vecchie glorie. Ho rivisto quest'estate Paolo Limiti, faceva esattamente quello che facevano coloro che hanno portato due vecchi ballerini in disarmo a presentarsi in televisione. Nicola La Gioia, vediamo di mettere insieme la profezia di Fellini con l'esito ultimo dell'avverarsi questa profezia, che è il film di Garrone. Ma speriamo che sia veramente l'esito ultimo, nel senso che effettivamente, come dicevi tu, c'è l'implosione della rappresentazione televisiva italiana è stata lentissima. Cioè è stato come veramente osservare al rallentatore un mostro che si disfaceva pezzo a pezzo, effettivamente dall'85, quindi veramente quasi pre-televisione commerciale, pre-Berlusconi in campo, eccetera, eccetera. Beh, in Gingere Fred c'è una sorta di sosia di Berlusconi. C'è un personaggio che è uguale a Berlusconi. Lombardozio, Lombardoni. Non ancora Caimano, ma insomma. Ancora solo imprenditore televisivo, non ancora figura politica di riferimento di tutto. Insomma, quindi vabbè, se i reality sono la via d'uscita di tutto questo, se il reality è appunto, in qualche modo, l'apocalisse, no? Proprio nel suo significato etimologico, cioè la rivelazione di senso. Se il reality serve a svelare un pochettino quello che è successo nel nostro immaginario degli ultimi 25 anni, ben venga questo crollo. Sì, calma, La Gioia, ben venga fino a un certo punto, perché adesso che abbiamo messo in cantina il cattivo, brutto reality che mostrava l'abiezione dei valori, c'è la risalita in superficie degli zombie, torna la Carrà, torna Gianni Morandi, da Pippo Baudo, cioè l'Italia non è che dà delle risposte in avanti, si ritirano fuori dai sepolcri le vecchie mummie. Sì, purtroppo l'Italia offre, cioè all'Italia l'unica speranza offerta all'Italia effettivamente sembra essere la biologia, cioè nel senso questi personaggi a un certo punto moriranno di morte naturale e quindi ce li non ricompariranno soltanto su YouTube. Sì, è vero, il gioco proprio deve mostrare la corda fino allo spasmo per rompersi. A me, come dire, l'unica cosa che mi dà un po' di speranza è che effettivamente se si vedono, cioè non, secondo me non vediamo più così tanto la televisione come la vedevamo prima, c'è una lenta emorragia, il fatto che è una morte lenta, dovremmo avere pazienza. Sei d'accordo, Emiliano Monreale, che in realtà la televisione rappresenta, per dirla alla Popper, una cattiva maestra a cui bisogna tenersi lontani? Non è invece interessante tenerla sempre d'occhio, perché è lo specchio più fedele della nostra essenza? Ma io credo che ormai si debba utilizzare televisione in senso metaforico, cioè come Guy Debord usava spettacolo. Hai ragione. La televisione è quella roba lì, ma non coincide necessariamente con quell'affare che accendiamo. Sì, è televisione, ma è televisione, anche gran parte della politica è televisione, gran parte del cinema è televisione. Ecco, in questo senso espanso, secondo me sì, la televisione è da tenere d'occhio ed è ancora il cuore del nostro tempo. C'è da dire che però nelle nuove generazioni c'è stato, secondo me, un salto di proprio percettivo fortissimo, cioè, e non necessariamente negativo. Parte che ormai l'audience delle grandi ammiraglie televisive generaliste è sopra i 60 anni. Sì, è una dimensione prostatica ormai del sì, pubblico. Melog. La realtà condivisa. Sono appena tornato dal film di Matteo Garrone, che ha vinto il Gran Premio della Giuria all'ultimo festival di Cannes. Reality è una satira contro il Grande Fratello e il sistema dei reality show che portano l'uomo medio, l'italiano medio, la storia ambientata a Napoli, sul punto su di rottura, addirittura un uomo sulla trentina, sulla quarantina d'anni, pescatore, si affascina al mondo dei reati con la speranza di essere chiamato dal grande fratello a entrare nella casa, incomincerà a comportarsi, a diventare paranoico, credendo di essere seguito a vista d'occhio dalle persone della televisione, e quindi incomincerà a dare tutto ciò che ha, ad agire tutto ciò che ha, e finirà si venderà la pescheria, venderà tutto ciò che ha, smetterà di fare truffe, con la speranza di essere notato e di entrare nella casa del grande fratello. Ecco, siamo arrivati al punto finale, si chiude il cerchio, come aveva profetizzato Morreale prima della pausa dedicata al traffico. In realtà la televisione non esiste più. Questo è un ragazzo anonimo napoletano che ha visto il film e attraverso la sua televisione, cioè il suo computerino della cameretta da letto da studente, si pubblica su YouTube la propria lettura di quel film e lo vede già con un occhio diverso. Già non gli appartiene più, è qualcosa di diverso a lui, anche se è perfettamente inserito nel suo contesto locale, culturale, è uno che probabilmente abita sotto casa sua. Quindi averlo già immobilizzato in una figura fuori dal tempo, fuori dalla realtà, già lo rende letteratura, già non è più realtà. Questo ragazzo ha un anno dalla fine del Grande Fratello, già lo considera qualcosa che non tenterà mai più lui, qualcosa che appartiene al passato. Nicola La Gioia, un commento a questo ragazzo. Mi sembra proprio che sia rappresentativo del salto di cui parlava Emiliano Monreale, cioè del cambio di paradigma. Magari il sogno di questo ragazzo non è andare al Grande Fratello, ma è che sulla sua pagina di YouTube diventi un critico cinematografico virtuale e quindi poi venga pescato, anziché al Grande Fratello, dalla home page di Repubblica. Cioè cambia completamente, no, il paradigma e il desiderio di notorietà, che è diverso, si sposta in rete, e quindi effettivamente sembrava davvero che raccontasse. Sì, senza averne però nessuna cura nell'affinare gli strumenti culturali, no, diciamo la verità. È perché purtroppo il fatto che vediamo superata questa epoca non vuol dire che non ne siamo figli. Lui è comunque figlio di un ventennio che ti portava a pensare che anche se non sapevi fare niente potevi fare qualche cosa, e quindi si affaccia al nuovo mondo, ahimè, con il bagaglio che ti avevano detto che sarebbe stato sufficiente per sopravvivere. Il problema appunto è che quando poi si esce fuori dallo specchio di Alice, quando si torna nella realtà, quando questo ragazzo dovrà cercare di battere cassa da qualche parte, rimarrà con un palmo di naso. Quello è il problema. Ecco perché effettivamente Pinocchio, no, c'è un'atmosfera collodiana, mi sembra di capire, in questo film. Ecco perché mi sembra che sia abbastanza pregnante. È l'idea che ancora però nessuno si è reso conto che il paese dei balocchi alle nostre spalle. Il film ha vinto il gran premio della giuria a Cannes e io ero partito con i buoni propositi. Controllo il sito IMDb, International Movie Database, e ha un rating di 5,8. Per un film che ha vinto un premio così importante non me l'aspettavo. Vado a vedere il film e due cose non mi sono piaciute. Uno, l'aspetto: si vuole parlare, si vuole criticare il Grande Fratello, si vuole fare una satira in modo grottesco della situazione, però la satira in modo grottesco o la fai e fai ridere o non la fai e basta. Invece qua si vuole fare una satira in modo grottesco con un film. Un po' quello è la critica che fanno tutti quelli che sentono colti dalla satira, cioè non c'è fa ridere, e il comico dice: ma io non devo far ridere, io sono molto più di un comico. Giuseppe Sanzonna, vedo che il tuo mestiere è in precario equilibrio. No, mi ricordava il vertiginoso Napoli, il critico che Cipriamaresco che purtroppo è scomparso, ma che avevano nobilitato nella sua grandezza. Un altro dei grandi guizzi del film. Ma non lo prende in giro, lui è uno strumento molto raffinato, lui non gli interessa quelle che sono le tabelline tarocche sulle pagine dei giornali sul film più visto. Lui guarda i numeretti su quanto è stato visto su YouTube o su internet, quello è il suo punto di riferimento. Sì, è un approccio diretto, appunto, come tutti possono fare tutto, non è necessario nessun tipo di preparazione, quindi c'è l'accesso immediato a tutto. Ma tornando invece al film, uno dei grandi guizzi una delle scene di massa finali è il nostro personaggio che si redime attraverso il volontariato cattolico per uscire dalla psicosi da Grande Fratello, e in questa immensa Via Crucis, grande rappresentazione di massa a Roma, trova il modo di staccarsi e si dirige verso la Tuscolana, verso Cinecittà, e lì c'è un guizzo di intuizione fra le rappresentazioni che è molto bello. Sì, ma Emiliano Morreale, c'è una biura, lui dalla Via Crucis, il mondo vecchio, il mondo passato, entra in un'altra religione, entra nel paradiso del Grande Fratello, e lì ha la sua apoteosi, la salvezza della sua anima. Una delle cose spiazzanti del film è proprio questa, è la dimensione, non voglio dire religiosa, ma proprio trascendente. Cioè è un film, Garrone è sempre stato un regista abbastanza laico, in questo film però ha una dimensione della trascendenza molto forte, cioè lui racconta la storia di una chiamata, ma proprio la chiamata nel senso della vocazione. Quest'uomo sì, è un pazzo, ma è San Francesco d'Assisi che si spoglia di tutto e segue una chiamata, solo che la chiamata di chi è? Non è di un dio, del dio dei cristiani, è la chiamata del dio, se vogliamo, della fantascienza, di Ubik, di Philip Dick, del dio del Truman Show, è quella chiamata lì. La cosa incredibile è che poi in questa dimensione lui ha a suo modo ragione, non racconterò il finale del film, ma insomma è una sorta di apoteosi apocalisse, se vogliamo, in cui lui ha contemporaneamente torto e ragione vabbè, non la voglio raccontare al finale, perché finale. Tra l'altro è una delle cose più belle finale, del film. Non trova paradossale che proprio nel momento in cui si chiudono le porte al paradiso, non c'è più il Grande Fratello, Garrone stabilisce la liturgia del Grande Fratello, le ragazze davanti allo specchio, gli uomini nudi che si tuffano in piscina, il trenino ammiccante, la maniera per andare in paradiso quando il paradiso non c'è più? No, mi sembra che abbia avuto un tempismo perfetto, no? La letteratura nasce raccontando storie di secoli prima, e quindi anche il cinema è un grande archiviatore da questo punto di vista. Il fatto che sia avvenuto a soltanto un anno dalla fine del Grande Fratello, insomma, mi fa dire che c'è un buon tempismo. Abbiamo finito, grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, spero che nessuno si sentirà offeso, perché il Grande Fratello, insomma, anche se tutti ne abbiamo parlato male, il sottoscritto per 10 anni, ha contaminato e lasciato una traccia profonda in tutti noi.